che oggi passano in gran parte attraverso la rete, attraverso internet, attraverso l'uso di tutto questo. Abbiamo quindi una sua testimonianza, poi credo dovrebbe arrivare anche Gianluca Mazzini, che è il direttore generale di Lepida e CUB 2000, due società che tendono a fondersi in questo momento, e sono società, come sapete, che hanno lavorato sui servizi al cittadino, Lepida dal lato, diciamo, della connessione, del digital divide, si dice oggi, e CUP su temi come il CUP, il fascicolo sanitario elettronico, eccetera. Quindi abbiamo come ultima lezione due testimonianze particolarmente significative. Le cose sull'andamento del corso ce le racconteremo 23, però adesso vi do già subito una notizia, che noi dovevamo andare al Baraccano il 23, ci sono dei problemi logistici sul Baraccano. Volevamo anche strutturare in un certo modo, perché tutte le prove che abbiamo fatto di acustica è terribile, non siete niente, no? Allora, da questo punto di vista, abbiamo pensato di trovarci qui, e se abbiamo molta gente abbiamo anche la sala di là, ci organizziamo, anche perché poi qualche bottiglia alla fine del corso la vogliamo stappare, quindi qui vi siamo anche attrezzati, mentre là. Quindi lo facciamo qui il 23 alle 16, non alle 16.30, perché abbiamo la consegna di tutti gli attestati di partecipazione, abbiamo il sindaco, abbiamo un sacco di personalità, ci sono io, c'è Mauro Mori, noi non facciamo testo, ci siamo sempre, ma ci sono tantissimi, adesso io non vi faccio tutti i nomi che avete visto di personalità importanti, ma quello che vi dico è che avremo anche molti dei nostri insegnanti, io ne ho già 4-5 di professori dell'Università di Bologna, e non solo dell'Università di Bologna, che hanno insegnato qui per 15 lezioni, è stato un grosso contributo da parte dei nostri docenti, che hanno detto che vogliono, mi ha telefonato la Memmo, eccetera, oltre a Colozzi e molti altri, che saranno qui tutti assieme. Quindi sarà anche un po' un giovedì un po' informale, non è che stiamo a fare delle relazioni, sì, ci sarà, verranno però presentate due ricerche molto attente, su cui ha lavorato anche Teresa, all'altra un altro ricercatore molto bravo che si chiama Monteduro, che sui diritti in ambito sociosanitario, e una ricerca, queste ricerche sono fatte in accordo con l'Università di Bologna, sul diritto alla casa. Una è la conclusione di una nostra discussione, l'altra butta un tema per continuare, perché noi il diritto alla casa, come il diritto alla mobilità, non l'abbiamo ancora affrontato, pensiamo un tema da portare nel 2018, spero che tu ci darai il contributo anche in quell'occasione. Allora, dette queste cose, quindi l'appuntamento di giovedì, dicevo, abbiamo come ultimo appuntamento della scuola, ovviamente il sindaco sarà presente, mi ha tornato a dire che non vuole assolutamente mancare, che ha anche delle proposte da farci molto importanti per il 2018, quindi più di così. Allora, io darei la parola a Raffaele Donini. Io conosco Raffaele da molto tempo, è uno di quegli assessori, di quegli amministratori che non sta dietro la scrivania, cioè ci sta anche dietro la scrivania, ma lo vedo molto tra la gente, attento, l'ho visto sui treni, l'ho visto che ascolta, l'ho visto, quindi, e questo è direi che è una caratteristica molto importante, perché quello che noi viene fuori con grande forza da questi 15 appuntamenti, da tutti gli appunti che voi avete preso, dalle relazioni, è un materiale ricchissimo, su cui dovremo lavorare per mesi, sul materiale della nostra scuola. Viene fuori che non sempre questo ascolto è garantito, e a volte tra quello che si fa e quello che la gente ha bisogno, pensa, vorrebbe dire, c'è un divario che è importante, che soprattutto la politica deve avere questo compito. Questa sera il tema dei diritti del cittadino in ambito digitale, è un tema decisivo. Questa è la scuola di Achille Ardigò, lui prima di internet aveva già lanciato un progetto che assomigliava ai social street, cioè lui aveva in mente delle reti di strada, ad esempio il primo progetto che fece era televisioni di strada, voi non le avete più viste sviluppare, c'è un caso solo al Pilastro, che è una televisione di caseggiato, che ha continuato a vivere di quell'esperienza, però aveva già pensato a delle televisioni, si chiamano a cono stretto, una cosa di questo genere, che potessero mettere assieme gruppi di persone e utilizzare la rete per socializzare. Come vedete, stiamo parlando degli anni 80, internet io l'ho cominciato a capire cos'era nel 1995, quindi parliamo di periodi molto precedenti. Quindi il tema di usare le reti per tutelare il diritto e quindi il diritto di accesso dei cittadini alla rete è in questo momento un tema di comunicazione, un tema centrale, perché senza comunicazione, senza diritto, senza alta comunicazione, oggi garantita dalla rete, non abbiamo. Detto questo, io Raffaele ti do la parola. Finisco, Presidente. Allora, grazie, grazie Mauro, grazie alla Fondazione Ardigò, spero di non abbassare eccessivamente il livello della qualità didattica che avete sperimentato in queste vostre riunioni, in questi vostri incontri. Anche io peraltro sono interessato perché, oltre che essere amministratore, ero dirigente politico, ma più che altro sono anche molto curioso di tutto ciò che si muove nella società, e quindi poi i quaderni che si potranno redigere al termine di queste vostre, di questi vostri percorsi di formazione e di confronto interessano anche me, non solo per le mie materie, ma in generale per capire appunto ciò che è possibile trarre come spunto di riflessione dalla movimentazione intellettuale della società. E io mi presento, per chi non mi dovesse conoscere, fui il più giovane sindaco d'Italia nel 1994 nel comune di Monteveglio, il comune che ha dato, diciamo, grande amore, grande ospitalità, uno dei padri della Chiesa, Don Giuseppe Dossetti, in cui si sono sviluppati i comitati per la difesa della Costituzione dal 94 in poi, in cui ci fu quel bellissimo e travolgente incontro all'Abbazia di Monteveglio tra Don Giuseppe Dossetti e Nilde Iotti, organizzato dal sottoscritto all'età di 23 anni, e fu quello il mio primo battesimo, diciamo così. Mori mi intervistò, fu la prima intervista che mi fecero. E poi, dopo 10 anni di amministrazione da sindaco Monteveglio, ho avuto l'incarico di consigliere provinciale. Qui ci sono alcuni miei compagni di viaggio, Edgardo degli Esposti, Nadia Musolesi, che sono stati con me in consiglio in provincia. Parallelamente a quell'attività ho avuto anche un incarico politico per 5 anni come segretario del PD di Bologna. Dal 2015 sono assessore in regione ai trasporti, alle infrastrutture digitali, alla pianificazione territoriale. Proprio su questi tre macro temi stanno venendo al pettine 3 riforme molto importanti per i cittadini della nostra regione. La prima la firmeremo il 4 dicembre prossimo col ministro Delrio, con tutti i sindacati confederali, con tutte le imprese di trasporto pubblico, con tutti i comuni capoluogo, con tutti i privati subaffidatari di servizi pubblici di trasporti, con tutte le agenzie per la mobilità, con tutti, diciamo, gli interlocutori del TPL per la riforma del trasporto pubblico locale. Riforma del trasporto pubblico locale che comprenderà nuovi diritti per i cittadini alla mobilità. Mi riferisco per esempio non soltanto al rinnovo del materiale rotabile su ferro e su gomma, che è il diritto a viaggiare in maniera, diciamo così, dignitosa e confortevole, ma e noi siamo l'unica regione che sulla base di un bando pubblico ha la possibilità di ottenere da qui al 2019 tutti i treni nuovi per la regione Emilia-Romagna. Oggi non c'è nessuna regione in Italia che può avere questa prospettiva. Bologna è già un po' più avanti perché i primi treni li abbiamo messi nel sistema ferroviario metropolitano bolognese, ma complessivamente alla fine del 2019 l'Emilia Romagna avrà rinnovato 75 elettrotreni, che sono praticamente la quasi totalità dei mezzi che scorrono tutti i giorni pieni di pendolari. Significa anche però bigliettazione elettronica, cioè significa che non so quanti di voi siano in possesso della carta Mi Muovo, dell'abbonamento Mi Muovo, in particolare l'abbonamento ferroviario Mi Muovo, tutto treno, che diventerà un borsellino, diventerà un borsellino elettronico. Per cui non sarà soltanto a disposizione dei pendolari che hanno necessità di muoversi sempre e quindi diciamo sono abbonati, ma diventerà a disposizione dei cittadini, di tutti i cittadini, che potranno anche come corsa semplice decidere di prendere un treno o un autobus e non dovranno correre alle biglietterie o comunque diventare matti perché hanno già il biglietto in tasca attraverso appunto il sistema telematico. Significa il diritto all'integrazione tariffaria, che è anche una grande manovra sociale, perché l'integrazione tariffaria oggi, chi è abbonato oggi di una linea ferroviaria, penso alla Bologna-Vignola, la Bologna-Porto Maggiore, la Bologna-La Porretta-Bologna, la Bologna-Prato e via dicendo, quando arriva in città, che sia studente o che sia lavoratore, se si muove con autobus di linea in città, deve necessariamente prendersi un altro abbonamento, comprarsi un altro abbonamento. Dal settembre del 2018 coroneremo un progetto che giaceva nei cassetti della regione dal 1996 e che consentirà agli abbonati delle tratte ferroviarie di poter circolare gratuitamente con lo stesso abbonamento del treno negli autobus di linea delle città capoluogo. Questo significa per 36.000 studenti o lavoratori un risparmio medio di 180 euro all'anno, che comunque sono, per chi ha qualche figlio che studia nelle città capoluogo oppure chi si muove diciamo per ragioni obiettive di lavoro, una buona ossigenata, ma in particolare si riconosce appunto il diritto a muoversi senza ulteriori aggravamenti di spesa per l'abbonamento. Si parlerà di tanti altri diritti, fra cui anche i diritti dei lavoratori che lavorano nel sistema del trasporto pubblico locale. Il trasporto pubblico locale è un'azienda complessivamente la seconda in regione dopo la sanità, perché stiamo parlando di un budget di circa 700 milioni di euro all'anno con mi pare 7.000 dipendenti. E che riguarda circa 1 milione di cittadini al giorno, 1 milione di passeggeri al giorno. Sono 150.000 passeggeri sui treni e 850.000 sugli autobus. Quindi una riforma storica alla quale stiamo lavorando da 3 anni, dal primo giorno di insediamento mio ho cominciato a istituire questi tavoli e che firmeremo il 4 di dicembre. Riforma che avrà il consenso di tutti, e questa è la mia premessa. Le riforme buone non sono quelle migliori possibili sul piano teorico, ma sono quelle che hanno il più elevato grado di condivisione sociale. La miglior riforma possibile è quella che è accettata da tutti gli interlocutori, i quali non potranno pretendere di scriverla sotto dettatura all'amministrazione pubblica, ma che dovranno in essa riconoscersi per una parte almeno consistente del suo contenuto. Quindi questa è una riforma che sostanzialmente è accettata da tutti. Altra riforma riguarda la riforma urbanistica. Noi abbiamo aggredito una situazione molto, perché si tratta di diritto alla salute, si tratta di diritto alla qualità della vita, si tratta di diritto al welfare, si tratta di diritto al lavoro e si tratta di diritto alla tutela ambientale che riguarda tutti noi. E noi siamo una delle regioni che ha consumato più suolo in Italia, ciao direttore, e siamo una delle regioni che ha il tasso maggiore di dispersione urbanistica, cioè il 25% delle costruzioni in Emilia-Romagna non sono collocate negli agglomerati urbani. Questo, per esempio, mette in forte crisi anche i diritti dei cittadini, che sono il diritto alla mobilità, il diritto alla sicurezza, il diritto appunto ai servizi che le amministrazioni erogano, perché la divaricazione urbanistica provoca costi aggiuntivi e non sempre le amministrazioni riescono a portare i servizi laddove risiedono i cittadini o dove si collocano le imprese. E poi nella pancia dei piani strutturali e regolatori della Regione Emilia-Romagna abbiamo fatto una fotografia, e la fotografia ci dice che ci sarebbero ad oggi 250 km quadrati di nuove costruzioni, nuove edificazioni in zone agricole e verdi in Emilia-Romagna, l'equivalente di due città di Bologna, che potrebbero già stasera essere realizzate con strumenti operativi. E quindi abbiamo fatto una legge che, senza voler congelare lo sviluppo economico, taglia di netto queste previsioni di espansione. Una legge che riduce sensibilmente queste previsioni, non più 250 km da realizzare subito, ma 60 km da qui al 2050, quindi un taglio netto di 2/3 delle previsioni. Una legge che incentiverà al massimo la rigenerazione urbana, perché la sfida è quella di chiudere un'epoca ma aprire un mercato, che è quello della riqualificazione degli edifici, della riqualificazione dei quartieri, delle parti degradate della nostra città, la semplificazione amministrativa. Oggi i comuni impiegano in media 10 anni per pianificare i prossimi 20, non siamo competitivi da nessuna parte del mondo, quindi abbiamo tagliato, perché molto spesso il legislatore, quando decide di semplificare, complica. Il modo migliore per non complicare a volte è tagliare. Abbiamo tagliato gli strumenti urbanistici, che erano troppi, ridondanti, e abbiamo, e in particolare abbiamo tenuto fuori le organizzazioni criminali, e terremo fuori le organizzazioni criminali dal comparto edilizio, perché la nuova legge urbanistica è stata scritta sulla base del processo a Emilia, che a Reggio Emilia ha visto l'infiltrazione dell''ndrangheta nel settore delle costruzioni. E con la nuova legge urbanistica non sarà più possibile per nessuna impresa proporre un atto di trasformazione urbanistica al comune senza sottoporsi a una indagine antimafia, che non è la mera dichiarazione antimafia, è proprio un'indagine a carico del proponente. All'inizio qualche ben pensante ci ha detto: ma così rallentate tutto. Non rallentiamo niente, gli accordi operativi saranno validati in 90 giorni, l'indagine durerà quasi un anno. Intanto chi non fosse infiltrato dalla 'ndrangheta non ha nulla da temere, diciamo, non è che uno viene infiltrato su insaputa, ecco. E per chi dovesse invece incorrere in qualche problema di natura giudiziaria, l'accordo operativo verrebbe sciolto e il comune avrebbe anche titolo al risarcimento del danno. Terza riforma, e qui vengo al punto di oggi, è la riforma. Ovviamente anche questa riforma urbanistica ha fatto discutere, c'è chi dice che abbiamo tagliato troppo, c'è chi dice che abbiamo tagliato poco. Noi ci presenteremo con una condivisione praticamente di tutte le parti sociali, tutti quelli che hanno firmato il patto per il lavoro, quindi tutti i sindacati, tutte le categorie economiche produttive, tutti i comuni, tutti gli ordini professionali. Poi è chiaro che se c'è qualche associazione ambientalista che dice che dobbiamo tagliare di più, e qualche categoria che dice che abbiamo tagliato troppo, allora vuol dire che la legge è giusta, perché si è collocata, diciamo così, in una situazione tale da garantire un equilibrio tra lo sviluppo economico e la tutela ambientale. Terza riforma che sta avvenendo, qui è proprio una vera rivoluzione, in Emilia-Romagna, è la riforma e la rivoluzione digitale. Allora, noi ritiriamo ogni settimana ormai i premi, che sia la Fiera di Milano, lo SMAO, che sia Roma, il Ministero, che sia l'Europa, premi per essere la prima regione con lo, diciamo, per lo sviluppo digitale in Italia. Però io dico sempre che siamo come quelle squadre, per me innominabili, di calcio, che vincono i campionati italiani ma poi non riescono a vincere la Champions League. Qualcuno juventino di voi no? Sono ovviamente attestati importanti essere i primi in Italia, ma l'Europa è più avanti. E quindi noi non dobbiamo soltanto vincere la competitività diciamo in ambito nazionale, dobbiamo porci a livello europeo per competere sul lato imprese e per assicurare i diritti sul lato cittadini pari alle più avanzate regioni europee. E per noi oggi siamo nelle condizioni di poter fare questo in tempi certi, con risorse certe e con strumenti certi. Anche lì non è stato facile, perché occorrevano quasi 300 milioni di euro per completare questa rivoluzione digitale, che siamo riusciti a ottenere sia dal governo, sia con risorse nostre, sia dall'Europa, e oggi noi siamo nelle condizioni di arrivare al 2020, 2021, fosse anche il 2022, ma nel giro di 4 anni sicuramente, a eliminare il cosiddetto digital divide. Cos'è il digital divide? È questa differenziazione di infrastruttura digitale che pone alcuni territori e alcune fasce di cittadini in una situazione tale da non poter beneficiare dei diritti digitali o delle opportunità digitali sul lato imprese. Come, e qui arrivo un po' alla strategia che stiamo seguendo, cosa sta facendo la regione e dove sta agendo per questa rivoluzione digitale? Il primo punto è le infrastrutture. Cioè, non esiste rivoluzione digitale se non si porta la fibra, se non si porta la banda ultra larga a casa dei cittadini e nelle disponibilità delle imprese. Secondo tema, il tema dei dati e dei servizi, perché la banda ultra larga, la fibra ottica sono le infrastrutture, sono le autostrade, ma un'autostrada può essere un'autostrada piena di traffico, con del bel traffico, o un'autostrada vuota, senza nessun tipo di... tutti noi la vorremmo vuota quando tocca a noi, diciamo, però un'autostrada, diciamo così, che senza contenuti, ecco. Noi avremo delle autostrade digitali da qui a 2 o 3 anni e dobbiamo arrivare parallelamente a costruire anche una potenzialità nel campo dei servizi e dei dati. Le competenze. Noi ci stiamo accorgendo che l'Italia e l'Emilia-Romagna in particolare ha grandi competenze sul piano digitale, non solo di imprese, non solo di realtà anche della pubblica amministrazione, ma anche individualità. E è cresciuto molto questo paese, questa regione, in termini di capacità individuali di utilizzo e gestione delle tecnologie. Gli italiani sono creativi anche lì e siamo bravi anche in quel campo. Pensate soltanto a fare un flashback rispetto a qualche anno fa, quando non c'era la possibilità di Google Map, quando non c'era la possibilità di diciamo dei social network, quando questi elementi e questi strumenti non c'erano. Pensiamo adesso, noi siamo, mentre siamo qua, magari rispondiamo in tutto il mondo con i nostri social network, con le chat, con oppure siamo venuti qua attraverso appunto l'indicazione di una mappa telematica. Quindi noi ci siamo abilitati molto all'esercizio di queste tecnologie. Apro una parentesi perché siamo in una sede che, come dire, si può dire anche queste cose con un certo orgoglio. Sono tecnologie anche alienanti e pericolose perché potrebbero e possono anche far decadere la qualità delle relazioni umane, perché possono anche uccidere persone, perché il 50-60% dei morti sulle strade avviene proprio perché non si guida e basta, ma si chatta mentre si guida. Noi faremo delle campagne di sensibilizzazione anche per questo. È assurdo che si muoia per questo, ma purtroppo è così. E poi perché è chiaro che a volte la comunicazione, per quanto immediata nei tempi, è mediata negli strumenti. E quando una comunicazione è immediata nei tempi, cioè veloce, ma mediata negli strumenti, qualche problema di relazione gli esseri umani ce l'hanno. La velocità senza verità non è sempre un beneficio. Ma, chiusa questa parentesi, il nostro obiettivo è quello di portare comunque infrastrutture, dati e servizi, competenze e creare una comunità che sia una comunità adeguata sotto l'aspetto digitale. Per questo abbiamo cominciato da, come tutte le rivoluzioni o come tutte le stagioni, diciamo così, di costruzione di un grande progetto, da una costituente digitale. Abbiamo attivato in regione una grande comunità di persone fatte da pubbliche amministrazioni, da ambiti professionali, ma anche da giovani studenti o comunque quelli che vengono volgarmente chiamati gli smanettoni, cioè quelli che hanno acquisito competenze in modo autodidattico. Abbiamo riunito cervelli e abbiamo collocato l'agenda digitale della Regione Emilia-Romagna in sintonia con agende digitali territorio per territorio. Perché in modo che mentre queste idee si producevano, mentre questi progetti nascevano, si potessero anche radicare nel territorio della Regione Emilia-Romagna in modo omogeneo. La Regione Emilia-Romagna in molti aspetti, dal lato sanitario, dal lato trasporti, dal lato del lavoro, dal lato delle opportunità, è cresciuta in maniera omogenea. E molte altre regioni, anche quelle più sviluppate di noi, penso alla Lombardia, hanno delle disparità maggiori al loro interno. Non parliamo del Piemonte, dove tra Torino e il resto del territorio c'è un abisso. Lombardia, tra Milano e il resto del territorio c'è un abisso. Il Veneto anche lì ha delle zone completamente dimenticate dalle politiche di sviluppo. La regione Emilia-Romagna, che pur ha peccato negli anni scorsi di questa politica policentrica, che è stata una delle ragioni del cambio di passo che abbiamo dovuto affrontare in questa nostra amministrazione, però comunque ha consentito di avere uno sviluppo più omogeneo. E noi non abbiamo voluto tradire questa tradizione. La costituente digitale e l'agenda digitale della Regione Emilia-Romagna deve poter beneficiare di tutti gli apporti dei territori, ma al tempo stesso di garantire il trasferimento delle conoscenze, della progettualità nei territori. E questo è stato impostato in questo modo ed è continua in questo modo, perché vogliamo portare tutto il nostro territorio ad una adeguatezza digitale e non andare a 2 o 3 o 4 velocità. Come siamo messi oggi? Se la banda ultralarga fosse un mezzo di trasporto, dai dati che noi abbiamo, il 100% dei cittadini della regione Emilia-Romagna oggi avrebbe a disposizione 2 megabit di, soprattutto in download, comunque in ricezione, di banda ultralarga, che significherebbe andare ad una, andare a piedi, ad una camminata veloce. Quindi il 100% di noi riesce a camminare velocemente. Il 50% dei cittadini ha a disposizione 30 megabit, quindi potrebbe muoversi con una utilitaria. Il 10% di noi ha la Ferrari, cioè i 100 megabit. Oggi questa è una situazione oggettivamente distonica e di disparità. Quindi pone un problema di natura tecnologica, ma anche di natura politica, di natura etica, di natura sociale, perché oggi non siamo nelle condizioni di avere parità di opportunità digitali in tutto il nostro territorio e fra tutti i nostri cittadini. Come sarà la regione nel 2020? Io non so se sarà il 2020 o il 2021, ma arriviamo lì. Nel 2020 la regione sarà il 100% dei cittadini a 30 mega, che significa una buona utilitaria, e l'85% dei cittadini a 100 mega, quindi la Ferrari. Con questi dati noi avremo raggiunto non solo una leadership nazionale, ma anche una buona competitività a livello europeo. Quando ovviamente parliamo, poi Mazzini sarà più tecnicamente preciso del sottoscritto, ma quando parliamo della banda ultralarga e parliamo di questi dati, non parliamo tutti investimenti nostri. Cioè stiamo parlando, noi come regione siamo, diciamo così, possiamo intervenire soltanto nelle cosiddette zone bianche, cioè nelle zone in cui non si è manifestato alcun interesse di mercato, mentre nelle zone, diciamo così, ad alto interesse di mercato, è chiaro che i cittadini hanno già la possibilità di accedere alla banda ultralarga attraverso investimenti che hanno fatto i grandi operatori e le grandi società che investono. Noi non possiamo intervenire per legge, ovviamente, nelle zone in cui ci sono degli interessamenti forti di mercato. Interveniamo sulle cosiddette zone bianche, bruttissimo termine, a fallimento di mercato, cioè zone che effettivamente hanno avuto pochissimo interesse degli operatori, portando noi la dorsale centrale, portando noi attraverso Open Fiber la fibra, diciamo così, nelle immediate disponibilità dei cittadini. In quel momento porteremo degli operatori che avranno la facoltà di proporre ai cittadini l'utilizzo della banda ultralarga, ovviamente con tariffe che non sono minimamente paragonabili a quelle che metterebbero oggi, se dovessero fare quegli stessi operatori, tutte le infrastrutture che noi portiamo. Quindi noi ci muoviamo assolutamente nell'ambito della disciplina europea che riguarda ovviamente il settore, e ci muoviamo in questa direzione e abbiamo già un piano e un calendario in corso, nel senso che i 255 milioni sono nella nostra disponibilità, 75 milioni li ha messi la regione subito nel 2015 per iniziare il lavoro, e 180 milioni di euro ce li ha dati il governo l'anno scorso con un accordo che ha assegnato alla regione Emilia-Romagna più del 10% delle risorse complessive in Italia sulla banda ultralarga. Perché ce l'hanno dati a noi? Perché siamo simpatici, siamo carini, belli? No, perché noi li spendiamo quei soldi, e sono soldi che devono essere rendicontati all'Europa entro il 2020. Quindi il governo ha premiato le regioni, in particolare la regione Emilia-Romagna, che tradizionalmente, in modo storico diciamo così, è in grado di spendere e rendicontare in maniera trasparente i fondi europei per i quali appunto noi abbiamo accesso. Un dato molto importante che riguarda poi anche i contenuti riguarda le scuole. In Italia sono cablate in banda ultralarga 1800 scuole in tutta Italia. Di queste 1800 scuole, 860 sono in Emilia Romagna. Quindi in pratica noi siamo attorno al 50%, solo noi come Regione Emilia Romagna, di tutte le scuole in Italia che hanno la fibra ottica e la banda ultralarga. Perché abbiamo cominciato dalla scuola? Anche dalla scuola è abbastanza evidente, perché la qualità didattica sulla base di una forte dotazione tecnologica, noi li riscontriamo quotidianamente quando andiamo a parlare con gli studenti, è di gran lunga superiore. Io ricordo sempre un esempio che mi ha particolarmente inorgoglito. Quando ero sindaco del comune di Monteveglio, nell'allora anno 2000, non c'erano ancora queste tecnologie, la fibra ottica nei comuni preappenninici era un sogno. Noi mettemmo la banda larga satellitare nella scuola elementare e i miei bambini a Monteveglio nel 2000 studiavano inglese con una insegnante di madrelingua in videoconferenza con una scuola di Londra. Questo per dire ciò che si può fare e che fanno adesso tranquillamente le altre scuole con minor difficoltà tecnologica, per dire quanto si possa elevare la qualità didattica dei nostri figli in un periodo formativo molto importante che riguarda appunto la scuola primaria. E sono praticamente ormai ultimati quasi 300 municipi, quindi quasi tutti i municipi hanno, anzi forse le scuole e i municipi arrivano anche a un giga di banda, quindi molto superiore, e saranno ultimati le 1900 scuole in Emilia Romagna e 334 municipi nel 2020. Se però vogliamo garantire ulteriore espressione del diritto di cittadinanza digitale alla nostra popolazione, non dobbiamo pensare che l'internet veloce ci venga assicurato soltanto nei contenitori in cui si svolge la nostra attività umana e professionale, cioè casa, lavoro, scuola, municipio, ma anche nel tempo libero, anche all'aperto. Per questo è nato un progetto molto importante che sta andando benissimo, e di questo, come di tutto il resto, ringrazio ovviamente il direttore Mazzini perché è l'esempio di efficienza e capacità al tempo stesso, che è il wifi della regione Emilia-Romagna, che con grande fantasia abbiamo chiamato Emilia-Romagna Wifi. E ci abbiamo pensato anche a lungo. Perché wifi era già occupato. Questo è uno dei primi wifi che non è solo velocissimo, ma è anche libero, gratuito e non richiede credenziali, per cui è anche molto veloce per questo. Oggi sono già 1864 i punti wifi installati, arriveremo a 3000 entro il, diciamo così, fine 2017. E ci saranno, l'idea è di 4000 punti wifi entro il 2020, cioè uno ogni 1000 abitanti, che poi 1000 abitanti per modo di dire, perché se riusciamo a mettere per esempio il wifi allo stadio Dall'Ara, diciamo la community aumenta di molto, oppure se lo mettiamo negli ospedali, fuori parlo, nelle zone fuori, nelle fiere, nelle piazze, insomma sono comunque luoghi di aggregazione che è importante avere. Ecco, sulla, mi avvio alla conclusione. Noi però non pensiamo che la società della conoscenza, che presuppone l'adeguatezza infrastrutturale digitale, sia soltanto quella dell'infrastruttura. Occorre sviluppare appunto tutta una serie di servizi al cittadino. Cioè, il cittadino deve essere sempre più nelle condizioni di interfacciarsi con la pubblica amministrazione, con le strutture sanitarie, con le varie, diciamo, i vari hub della propria interattività, in modo autonomo, libero e veloce, possibilmente gratuito. Abbiamo per questo costituito 9 comunità telematiche formate da 500 persone, che a differenza della costituente digitale, che era un momento molto libero, molto basato sul brainstorm, sulla intuizione, sul confronto veloce, sulla visione, queste invece sono 9 comunità tematiche che devono approfondire delle progettualità specifiche, quindi abbiamo rivolto soprattutto a tecnici e abbiamo identificato 4 aree tematiche che sono tutte attive, una per i servizi digitali nella pubblica amministrazione verso i cittadini e le imprese, sono i servizi online per i cittadini e appunto i servizi online per imprese, una sull'amministrazione digitale per i documenti digitali, le banche dati, che è un altro mare di competenze, diciamo così, forse anche del futuro, e un altro per le infrastrutture abilitanti, quindi i servizi centralizzati, le nuvole, i cloud, eccetera, eccetera, e l'altro la trasformazione digitale e diciamo, le gestioni del cambiamento, del mutamento digitale, quindi le trasformazioni e le integrazioni. Tutti operatori che già svolgono nel loro lavoro questi, diciamo così, elementi, questi elementi di professionalità, e che devono per noi pensare a dei servizi per i cittadini. Quindi 500 persone tecniche che si misurano continuamente in queste comunità, che poi producono dei miglioramenti o dei servizi già attuali. Alcuni li abbiamo già. Il sistema di pagamento online di Lepida, sistema regionale utile per compiere pagamenti per i diversi, diciamo, servizi emessi dalla pubblica amministrazione, per esempio multe, una volta io ne facevo uso, rette scolastiche, ticket sanitari, eccetera, eccetera. Il fascicolo sanitario elettronico, che è, come dire, una delle, forse dei progetti più all'avanguardia, che peraltro abbiamo già da tempo, oggi mi pare siano quasi 400.000, 377.000 mi hanno detto oggi, i cittadini che hanno il fascicolo sanitario, quasi il 10% della popolazione. Pochi. Sono pochi, però comunque non sono pochi. Sono pochi per le ambizioni giustamente del progetto, però non sono pochissimi, ecco, nel senso che comunque è già una comunità consistente. Deve diventare la regola. L'accesso unitario ai servizi per le imprese, per esempio lo sport, anche qui io mi ricordo, da sindaco noi fummo i primi sperimentatori dello cosiddetto SUAP, che nacque ancora prima della legge, in quelle che adesso è diventato il comune della Valsamoggia, il comune fuso, all'epoca era lo sportello unico per attività produttive, però l'idea è sempre quella, cioè l'impresa che ha un referente, non che fa la migrazione in tutti i servizi della pubblica amministrazione come una pallina da flipper, ma deve avere un unico referente, che è un unico sportello che poi nel back office si pone in questa logica di sistema. Altra cosa, adesso non mi ricordo il dato preciso, ma in Emilia Romagna stanno calando i comuni, nel senso che abbiamo già formalizzato, abbiamo già realizzato mi pare 11 fusioni con 27 comuni in meno. Siamo la regione in Italia in cui è più marcato questo processo che noi incoraggiamo con finanziamenti e con incentivi di accorpamento di comuni. Ora, anche lì ho esperienze personali. Io fui il primo presidente della prima unione dei comuni dell'Emilia Romagna nel 1999 e già nel 2001-2002 gestivamo circa 20 gestioni associate di servizi e funzioni comunali con una strategia, partendo prima dai servizi che i comuni non avevano e che nacquero in modo, diciamo, unitario con la gestione associata piuttosto che ognuno per conto suo, e poi mettendo insieme i servizi che i comuni già avevano e che invece dovevano essere maggiormente accorpate. Le fusioni dei comuni, che molto spesso i cittadini bocciano ai referendum, e anche in Emilia Romagna abbiamo perso dei referendum sulle fusioni, in realtà, se le si va a vedere bene, riescono quelle fusioni che sono precedute da una gestione associata di servizi e di funzioni comunali, come un matrimonio che si consuma dopo un buon fidanzamento, nel senso che i comuni già hanno imparato a gestire insieme i servizi e poi si fondono, mentre un comune che va subito alla fusione non è detto che questa fusione riesca bene. E i comuni che hanno una piattaforma digitale unitaria. Perché dov'è l'equazione vera della fusione dei comuni? Dove sta la formula, diciamo, quella magica, no? L'equazione che bisogna realizzare? Molto semplice. I servizi al cittadino più vicini ai cittadini, i servizi di back office ottimizzati. Se due o tre comuni si fondono e la fusione porta in prossimità dei cittadini, anche nelle frazioni, i servizi che prima erano comune per comune, cioè aumentano i servizi dove c'è il front office, dove il cittadino ci va, allora quella è una fusione che funziona. Il servizio di busta paga, il servizio di ragioneria, il servizio di tributi, il servizio, tributi ci va il cittadino, il servizio, diciamo, il SIT, il sistema territoriale informatico, beh, quelli possono essere collocati in qualsiasi municipio dei comuni. Ma per operare questa equazione, cioè i servizi del cittadino più vicino al cittadino, i servizi di back office ottimizzati da qualche parte, bisogna che ci sia una infrastruttura digitale che recepisca questa riforma. Le fusioni che sono buone, che sono riuscite, che hanno buon esito, sono le fusioni che hanno queste due caratteristiche, cioè che hanno fatto bene la gestione associata di servizi e di funzioni e che in quella gestione associata vi fosse la gestione della informatizzazione, della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Quindi quando parliamo di sviluppo digitale non è che parliamo solo di informatica, cioè stiamo parlando di diritti dei cittadini, perché se io, siccome sappiamo tutti che i comuni sotto i 5.000 abitanti, che in Italia sono il 75-80%, non hanno futuro, e chi racconta cose diverse vende delle fontane di Trevi ai cittadini, i comuni sotto i 5.000 abitanti non hanno futuro, non hanno la massa critica, non hanno, ma non da oggi, da quando negli anni 80-70 si è instaurato il principio del pareggio di bilancio, perché non hanno più l'adeguatezza per proporre delle politiche. mentre i comuni dai 30 ai 50 mila abitanti, non solo in Italia ma in Europa, garantiscono il miglior rapporto servizi, sostenibilità fiscale e tributaria. Quindi vuol dire che la traiettoria che il legislatore dovrà fare è quella. Ci riusciremo in 5 anni, in 10 anni, in 30 anni, ma sarà quello l'obiettivo, cioè avere dei comuni che hanno attorno, o delle unioni dei comuni che hanno una trentina di migliaia di abitanti, da lì in su ovviamente. E per fare questo occorre che ci sia una buona gestione associata ai servizi, e per esserci una buona gestione associata ai servizi occorre che i servizi di back office possano venire ottimizzati da piattaforme digitali comuni. Infine chiudo, noi abbiamo stimato quasi 1 milione di cittadini, non è poco, della nostra regione, che sono a rischio di esclusione digitale. Una parte di questi, ad una parte di questi risolveremo il problema portandogli le tecnologie, perché magari una parte di questi risiedono in località in cui non c'è la fibra e arriverà la fibra. Una parte di questi invece non gli risolviamo il problema portandogli le tecnologie, perché non hanno la cultura digitale. Cioè, mio figlio a 10 anni ha preso il suo primo tablet 4 anni fa, anch'io ho preso il mio primo tablet 4-5 anni fa. La mia smart TV si rompe, lui è in grado di aggiustarla, io faccio fatica. Allora, ci sono delle generazioni native digitali che ovviamente sono state accompagnate nella loro crescita, nel loro sviluppo, in questa modalità. Dalla mia generazione in su non è detto che questo sia avvenuto, e quindi noi abbiamo lanciato un progetto che sta andando benissimo, che quando lo lanciammo ci presero anche un po' in giro, però i numeri ci danno molto ragione, che si chiama Pane Internet. Non è che diamo dei panini, no? Ecco, Pane Internet è il tentativo serio di accompagnare alla, diciamo così, emancipazione digitale quelle generazioni o quei cittadini, non è detto che siano, ci sono degli ottantenni che sono molto più bravi dei diciottenni, però insomma non è detto, però quelle generazioni o quei cittadini che non sono ancora, diciamo, adeguatamente formati sul piano digitale. Dal 2009 a oggi sono stati oltre 850 corsi organizzati sul territorio, questi anni abbiamo aumentato molto, oltre il 26.000 persone sono state interessate, 26.000 persone sono tante, il 60% sono over 65, però vuol dire che il 40% è anche under 65, ed è un progetto che la regione ha stanziato, per il quale ha stanziato 1,5 milioni e stanzierà altrettanto. E l'obiettivo nostro è arrivare a almeno 50.000 persone nel 2020 formate in questo modo. Quindi la rivoluzione digitale, chiudo, per noi si compone di alcune traiettorie molto precise. La prima è sul lato infrastrutture. Porteremo nelle zone a fallimento di mercato, a basso interesse di mercato, la fibra ottica. Sul lato dei servizi cercheremo di implementare tutti quei servizi digitali che possono consentire la maturazione di diritti al cittadino e di rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione fatti in modo veloce, autonomo e libero. Terzo, le competenze, perché attraverso la rivoluzione digitale possiamo appunto sviluppare quei progetti, fascicolo sanitario elettronico, o valorizzare quei progetti come il fascicolo sanitario, come altri che abbiamo detto, capaci di cambiare la vita e la qualità dei cittadini e aumentare i diritti. Infine, occuparci anche di coloro che non sono cresciuti in modo con lo sviluppo digitale, diciamo, e tenerli insieme nella comunità digitale. Questa è la riforma che stiamo attuando. Io vi ringrazio dell'attenzione e ovviamente per tutto ciò che riguarda elementi più di natura tecnica, ma non solo, il professor direttor Mazzini, perché insegna all'università e dirige l'EPIDA e CUP adesso, è in grado sicuramente meglio di me di potervi esaudire. Grazie. Io darei la parola subito a Mazzini e dopo, come è nostra abitudine, seguono interventi, domande, eccetera. Dicevo prima a Gianluca che c'è stato nel filo conduttore dei nostri 15 incontri, c'è stata una grande attenzione ovviamente a quella parte che, di cui ha parlato anche l'assessore Donini, di servizi che ci permettono l'accesso alla salute, l'accesso alla sanità, l'accesso, e questo è uno dei temi ovviamente che tra l'altro la scuola, che si richiama, lo dicevo prima che tu arrivassi, che si richiama da Achille Ardigoi, è una scuola molto attenta al pensiero sociotecnico. Il pensiero sociotecnico è quel pensiero che cerca appunto di coniugare le problematiche sociali con le tecnologie, evitando assolutamente di fare in modo che le tecnologie appartengano ai tecnologi e i problemi sociali invece alla fine appartengano ai cittadini, ma cercando di realizzare delle reti, delle esperienze dove la comunicazione, il potere di comunicazione delle reti viene messo proprio a garanzia anche del diritto del cittadino, a partire da tutta la grande problematica dell'accesso, che è uno dei temi su cui è nato poi Internet, no? Quindi Gianluca, direi, per completare questa introduzione, poi sentiamo domande e osservazioni. Sì, sebbene non sia facilissimo, dopo l'assessore Donini, che ha fatto un quadro dicendo quello che avrei detto, quindi adesso io mi invento cose assolutamente terze e vediamo se ci prendiamo. Visto che il tema sono i diritti, io credo che sia diritti veri, diritti reali, diritti acquisiti, poi bisogna vedere quale diritto andiamo a vedere, però volevo farvi un pochino un panorama sul settore dell'information technology, su alcuni diritti che stanno diventando, partendo dalle infrastrutture e andando verso i servizi, sempre più importanti. E volevo partire dal concetto di diritto universale o di servizio universale con diritto universale, che è un concetto abbastanza particolare. Ed è questo: se io sono in montagna e ho bisogno dell'acqua, l'acqua è un servizio universale e mi deve arrivare, oppure io devo pagare per avere effettivamente l'acqua? L'acqua è sicuramente un servizio universale, è difficile dire che lasciamo qualcuno senza acqua, ma se portare quell'acqua costa tanto, chi paga la differenza fra il giusto costo che io pagherei in centro della città piuttosto che il costo maggiore che mi viene perché l'infrastruttura è un'infrastruttura grande e complessa? Evidentemente deve pagare la collettività, non c'è nessun altro che può pagare. Ecco che allora sono nati i servizi cosiddetti universali, e ne sono nati tanti. Guardate, alcuni sembrano assurdi. Se oggi vi dico che la cabina telefonica è un servizio universale, voi immediatamente capite perché per toglierla ci appiccicano un cartello davanti e vi chiedono, o voi cittadini, se davvero l'avreste usata, perché basta che uno alzi la mano e dica quella cabina telefonica a me serve, che loro non possono toglierla, proprio perché nasce come servizio universale. Ma un altro servizio universale è l'elenco telefonico. Perché? Perché è il modo con cui uno può parlare con tutti gli altri sapendo chi è quell'altro, sapendo come raggiungerlo. Sono servizi strani, se volete, la cabina telefonica, il servizio telefonico. le comunicazioni marittime sono un servizio universale, perché senza quelle non riesco a raggiungere un qualcuno che sta dall'altra parte, esattamente come queste, le comunicazioni aeree sono un servizio universale, lasciando stare adesso la vicenda d'Italia e le complicazioni ben note di questi giorni. Il servizio telefonico è un servizio universale. E qui nasce una informazione però strana, che la banda larga non è un servizio universale. E questo è strano, cioè se la cabina telefonica, che fatemi dire, nella mia esperienza quotidiana di 20 anni fa esisteva quotidianamente, ma nella mia esperienza quotidiana attuale non esiste moltissimo, se la cabina telefonica è tuttora un servizio universale, perché non l'è la banda larga, che invece è quello strumento che noi quotidianamente utilizziamo, che c'è sul nostro cellulare e quant'altro? E la risposta immediatamente a questo, che è un diritto di avere un servizio universale e in particolare che la banda larga sia un servizio universale, viene immediatamente collegato al fatto che ci vogliono dei soldi per garantirlo, questo diritto. Ed ecco che allora, fino a un anno fa, nessuno osava dire che la banda larga o la banda ultralarga potesse diventare effettivamente un servizio universale. Da quando, come ricordava l'assessore Donini, ci sono stati investimenti forti da parte delle regioni e da parte del CIPE, quindi da quando il governo e le regioni hanno messo insieme un piano per far diventare la banda ultralarga un qualcosa che arriva a tutti, improvvisamente si sta pensando che anche la banda larga possa diventare finalmente un servizio universale. E guardate, questo è un elemento non banale, perché vi faccio un altro esempio: se noi dobbiamo costruire un servizio universale, nella costruzione del servizio universale, non, questo se è un diritto, può essere un diritto prioritario rispetto ad altri diritti. La proprietà è più importante o meno importante del servizio universale? Cioè, nel momento in cui io devo attaccare un filo a una vostra proprietà, se la proprietà è vostra e quello è un servizio universale, è più importante il servizio universale, ve lo dico ma lo attacco. Se quello non è un servizio universale, ve lo chiedo, voi mi dite di no e io non lo attacco. Quindi queste sono le due grandi differenze fra servizio universale. Quindi non è soltanto la possibilità di averlo, ma sono le implicazioni che ne derivano dall'avere un servizio universale. Allora noi però ci troviamo, e guardate, io ve lo racconto, credo che questo sia un ambito dove può essere interessante, ci troviamo che lo stesso mezzo fisico, che interpreta due servizi diversi, ha due nature diverse. Cioè, se io prendo un cavo e dico che su quel cavo faccio una telefonata, il cavo su cui faccio una telefonata è un servizio universale, quindi lo posso attaccare a casa vostra. Ma se io invece vengo a casa vostra e dico attacco un cavo perché trasmetto dati e i dati non sono un servizio universale, non posso attaccarlo. Quindi lo stesso identico oggetto, pensate, lo stesso oggetto fisico ha due nature di servizio diverso, uno universale, uno non, e quindi due diritti di permanenza diversi. E questo genera una complicazione enorme, perché se qualcuno vi dice che viene e vi attacca un filo e vi dice erroneamente che sta facendo telefonia, voi non potete dire nulla. Se però voi dopo rilevate che su quel filo lui non fa telefonia ma fa banda larga, voi potreste chiedere la rimozione. È una cosa incredibile, se volete, perché l'oggetto è sempre un filo e l'attività è sempre un filo. Quindi il diritto, che è non solo funzione del mezzo, ma diventa addirittura funzione di quello che ci corre sul mezzo. E qui riprendo proprio quello che diceva prima l'assessore Donini: l'autostrada e poi ci mettiamo i servizi. Attenzione, che la costruzione dell'autostrada non è indipendente dai servizi, perché i diritti su quell'autostrada sono funzioni a quello che ci farò, e quindi c'è una correlazione fortissima fra questi elementi. Ecco, io mi sono battuto, e come regione ci siamo battuti abbastanza, per cercare di far diventare la banda larga un servizio universale nei fatti, perché poi bisogna fare una serie di norme addirittura europee per arrivarci in fondo. Ma in questo un primo elemento chiave è: quant'è la banda minima che ci deve essere? Cioè, nel momento in cui ho un filo, che cosa mi aspetto? Quanta acqua ci deve essere in quel filo? Sapete la famosa regola che tu non paghi l'acqua, io te la tolgo, ma un po' che te devo lasciare, no? La gocciolina, perché tu non muori di sete, ci deve essere. Quindi questo è dove possono arrivare. È la stessa identica cosa. chiediamoci quant'è il minimo di banda larga che ci deve essere. E guardate, proprio perché non è un servizio universale, è stato normato in questo momento, l'unità di misura sono i bit al secondo, che ci deve essere, in questo momento è stato normato molti anni fa, che ci deve essere 2400 bit al secondo. Ora, con 2400 bit al secondo, bit o byte? Bit, con 2400 bit al secondo, chi di voi, l'età insomma è analoga alla mia, si ricorda che la connessione fra il modem iniziava a fischiare, ci metteva un po', cercava di arrivare, ecco, lì già eravamo intorno ai 9000, ecco, 2006, 2004 è molto meno, cioè quella roba per cui non è che non solo non si naviga in internet, non si fa nulla. Cioè, finalmente due anni fa è arrivata una legge che ha detto una cosa secondo me importantissima, che laddove è il pubblico che ci mette dei soldi, e quindi in tutte le aree dove il pubblico ci mette dei soldi, ci deve essere una banda aggregata minima che è almeno il 50% rispetto alla banda contrattualizzata. Cosa significa? Che se noi abbiamo un palazzo con 10 diversi appartamenti e ognuno compra 100 mega, che fa un giga complessivamente, a quel palazzo deve essere garantito almeno il 50% di quel giga, cioè mezzo giga. Guardate, questa operazione, che normalmente è disattesa completamente dagli operatori di telecomunicazioni, è il primo tentativo normativo di garantire qualcosa agli utenti, cioè di garantire almeno una certa quantità di banda. Ma allora, il tema che viene fuori molte volte e che mi piace poter introdurre in un consesso di questo tipo è: quant'è la banda minima di cui avremo bisogno in casa nostra? Prima l'assessore ci ricordava che l'Europa ci ha dato due obiettivi nel 2020, il 30 mega e il 100 mega. Ma la domanda è: se arriviamo a 100 mega, siamo felici? Allora, dipende da che cosa stiamo facendo in casa nostra. Con le mie figlie, che sono grandissime consumatrici di internet, non siamo felici con 100 mega perché ce ne rimangono pochi, quindi dipende da quanti sono i fruitori e che cosa stanno facendo. Ecco, allora andiamo a fare uno studio sulla persona. E sono stati fatti degli studi fantastici su quanto una persona può assorbire al massimo come banda. Allora, se noi guardiamo... Come le radiazioni solari, però il nostro, diciamo, se noi guardiamo i nostri sensi, la nostra capacità, il nostro cervello di elaborare, scopriamo delle cose, se volete, banali, ma insomma interessanti, che il nostro occhio fa la parte della regina, evidentemente. I nostri occhi sono oggetti che hanno una capacità di visione molto elevata, tant'è vero che chi ha seguito un attimo il mercato televisivo si è reso conto che siamo passati dal bianco e nero in poi, sono successe un po' di cose. Oggi siamo passati a televisori che hanno 720 linee, 1080 linee, adesso abbiamo il 4K, dopo andiamo all'ultra 4K e tutte le volte ci accorgiamo della differenza. Vuole dire che stiamo sfidando il nostro occhio, ma il nostro occhio va ancora più avanti. Quindi vuole dire che la televisione è più indietro a oggi rispetto al nostro occhio. Che è un bene per chi fa televisioni, perché continua a fare delle altre dopo, no? Cioè, questo sembra evidente. E allora qual è il limite? Beh, il nostro occhio va nell'intorno dei 400 megabit al secondo, cioè oltre 400 megabit al secondo dato al nostro occhio è inutile. Quindi c'è prima o poi un limite, e il limite è legato alla fisiologia del nostro occhio, è legato ai coni, ai bastoncelli, come è costruito l'oggetto, e quindi quello è il limite su cui noi arriviamo. Poi c'è un altro senso che paradossalmente usa tanto, che è il tatto, perché ne abbiamo tanto, perché abbiamo tanta pelle. E notate, gli altri sensi, l'udito, l'olfatto, eccetera, sono roba da poco. Quindi i due sensi che fanno, uno dice, ma che cosa mi interessa del tatto? E mi interessa perché stiamo pensando alla realtà immersiva, virtuale, nel quale io devo sentire come se fossi in un altro posto. Quindi sento la brezza perché qualcuno me l'ha trasferita e devo riuscire ad avere una realtà di quel tipo. Quindi io devo pensare da casa mia quant'è la banda per farmi vivere un'esperienza in cui io non sono a casa mia ma sono da un'altra parte. E quindi dove mi volto vedo. Qual è il numerino? È 500 megabit al secondo a persona. Ora qui facciamo un altro esercizio, diciamo che siamo in Emilia Romagna, che la densità abitativa dell'Emilia Romagna vede 2 persone 4, 2 persone e mezzo in ogni casa circa, più o meno, quello è il numero. Quindi facciamo 500 megabit per 2.5 e viene 1 giga e 2, 1 giga e 3. Quindi il numerino magico che noi vorremmo a casa nostra è 1 giga e 2, 1 giga e 3. Non è che se non ce l'abbiamo siamo particolarmente tristi, però diciamo che dare oltre 1 giga e 2, 1 giga e 3 a casa è abbastanza inutile. E allora viene fuori una domanda, ma gli investimenti che stiamo facendo in questo momento sono investimenti a prova di, perché prima parlavamo del 100 mega, sono investimenti a prova di questo giga 2, giga 3? La risposta è sì. Cioè la risposta è che una volta che noi siamo effettivamente arrivati a costruire un'infrastruttura che deve essere un servizio universale e l'abbiamo portata dappertutto, questa infrastruttura non solo ci dà il 100 mega oggi, ma domani, senza riscavare, senza andare a cambiare le infrastrutture posate, ma semplicemente cambiando quello che abbiamo a casa, cioè il routerino, la scatolina che ci è attaccata, siamo in grado di arrivare a questo giga 2, giga 3. E questo mi sembra un altro elemento molto importante in questo ragionamento che stiamo facendo. Un altro diritto che io credo che stia diventando sempre più fondamentale, ricordava prima Donini i social network. I social network ci danno un'esperienza doppia, ci danno un'esperienza in cui noi siamo sicuramente fruitori, cioè in cui guardiamo qualcosa, ma molte volte diventiamo fornitori, cioè mandiamo una foto di questa sala, quindi invertono il nostro paradigma naturale. Il nostro paradigma naturale è sempre stato quello di fruire qualcosa. Da fruitori stiamo diventando sempre di più fornitori. E immediatamente la DSL che abbiamo a casa o abbiamo avuto a casa, che nella migliore delle ipotesi fa 20 MB in downlink e 512K in uplink, quindi ci vede 40 volte, perché 20 MB rispetto a 512 ci vede 40 volte di più fruitori che fornitori, cioè sta ipotizzando che noi fruiamo 40 volte di più di quanto forniamo. È vera questa cosa? Per me forse è anche vera, per mia figlia non è vera. Mia figlia è una grande fornitrice di contenuti, mia figlia sviluppa in continuazione video e pubblica in continuazione video, e non è pensabile che vedere un video implichi 40 volte di tempo in meno che metterlo a disposizione. Perché? Quindi nasce un diritto, il diritto alla simmetria, che non è un diritto naturale sulle cose che stiamo dicendo. Il diritto alla simmetria è quel diritto che ci permette di avere un paziente a casa e monitorare che cosa sta facendo, perché un paziente a casa è un fornitore, non è un fruitore. Attenzione, non è uno che sta guardando la TV, è uno che sta mandando dei suoi parametri e qualcuno deve vedere quei parametri. Quindi il diritto alla simmetria è immediatamente un diritto all'assistenza domiciliare e alla telemedicina, oggetti che per anni non si sono riusciti a sviluppare perché è mancata la capacità di essere fornitori quanto fruitori. Quindi questo è un paradigma che sta cambiando, e sta cambiando molto. Ma in tutto questo, prima veniva ricordato una cosa che io chiamo il diritto all'uso, cioè nel momento in cui cerchiamo di fornire a tutti una capacità di usare, dobbiamo, perché ci sia l'uso, l'uso implica tre cose: che ci sia la disponibilità infrastrutturale, che qualcuno abbia acquisito quell'oggetto, ma soprattutto che qualcuno sappia che cosa farsene. Quindi pan internet è già un esempio di queste filiere. Quindi il diritto all'uso è un altro diritto importante. Stiamo cercando di fare e rendere a tutti maggiormente un diritto ad avere un'identità digitale. Siamo un po' stanchi del fatto che se voi andate a chiedere a qualcuno un servizio, questo qualcuno vi dà un login e la password, poi andate da un altro, questo qualcun altro viene da un altro, un comune magari viene da quattro, già che ci siamo, perché ha quattro settori diversi. L'idea è avere un'identità digitale unica che si possa utilizzare per fare qualunque servizio. Guardate che è l'equivalente di avere una carta d'identità. Se abbiamo il diritto a essere riconosciuti con una carta d'identità analogica, o anche una carta d'identità, chiamiamola pur digitale, ma è sempre un pezzo di plastica che abbiamo con noi, non si capisce perché non dovremmo avere il diritto a un'identità digitale riconosciuta e unica. E il fascicolo sanitario che si raccontava prima, che necessariamente tratta dei dati che sono fortemente personali, ci mancherebbe se non sono personali quelli, i miei esami medici, il mio stato di salute, è un dato sensibilissimo. Quel dato sensibilissimo lì, oltre che dover dire chi lo può guardare, chi non lo può guardare, il mio medico, eccetera, ma soprattutto io devo, visto che è un dato mio, io devo poter dire chi sono e chi e gestirlo. Oggi c'è stata la conferenza stampa in Regione Emilia-Romagna di lancio del fascicolo sanitario elettronico. L'elemento chiave perché il cittadino abbia il fascicolo sanitario elettronico, quindi perché si è aumenti quel numero, non è tanto l'attivazione del fascicolo che è un oggetto naturale, ma è il fatto che qualcuno abbia un'identità con cui entrare nel fascicolo. Se domattina noi avessimo 4 milioni e 3 di cittadini con 4 milioni e 3 di identità digitali, domattina ci sarebbero attivi 4 milioni e 3 di fascicoli senza far nient'altro, non ci sarebbero altri passaggi. Il vero passaggio è avere la certezza che il dato che ti do sia il tuo dato e quindi non mandare in giro dati rispetto ad altre risorse, rispetto ad altre possibilità. Ecco, credo che quindi il diritto all'identità digitale sia un diritto fondamentale per la distribuzione di tutti i servizi che dobbiamo costruire. Il fascicolo è il primo esempio. Ma il fascicolo sanitario non è l'unico esempio, perché dal fascicolo sanitario migriamo al fascicolo di tutte le pendenze del cittadino, migriamo a un contenitore che ha la mia parte sanitaria, ma la mia parte sociale, ma può avere la mia parte di tutte le relazioni che ho col pubblico e non col pubblico, perché no? Cioè è un contenitore di quello che io sono nei confronti dei soggetti terzi. Non vi annoio ulteriormente, volevo giusto dare due ultimi spunti in questo senso, perché costruire le infrastrutture che prima raccontava Donini implica anche costruire un ambito nel quale bisogna capire chi sono gli operatori che poi vi danno servizi a casa, perché un fatto è costruiamo delle fibre ovunque, ma poi chi viene a esercire quelle fibre? Ed è che allora, con un'azione che è partita dall'Emilia-Romagna, siamo riusciti a far cambiare delle leggi nazionali per abbassare enormemente i costi per diventare operatore di telecomunicazione. Cioè dimentichiamoci che l'operatore di telecomunicazione è Telecom Italia, Vodafone, Wind, Tiscali e tutti quelli di cui i nomi sono noti e facili. L'operatore di telecomunicazione è colui che grazie a un investimento pubblico può permettersi, senza investire di proprio, perché ha già investito il pubblico, di portarvi un servizio secondo un proprio modello di costo che può essere estremamente più basso di quello che abbiamo raccontato finora. Ma per farlo deve essere un operatore e per essere un operatore deve essere certificato come tale. Bene, pensate che abbiamo fatto cambiare di quasi 100 volte il costo per diventare operatori. Questo significa che oggi un soggetto qualunque che vuole fare una nuova imprenditoria e vuole diventare imprenditore nel settore delle telecomunicazioni, imprenditore nel settore dell'information technology, può farlo diventando operatore e usando senza investimenti le fibre ottiche che sono state messe tramite i soldi pubblici. Ultimissima cosa che volevo raccontarvi, perché prima c'è stata giustamente una battuta sugli ospedali nel wifi, che è una battuta importante però, perché noi abbiamo costruito una legge che in Emilia Romagna che dà libera la possibilità di avere il wifi. Allora, io vi do un elemento tecnico sul wifi. Il wifi ha una potenza di emissione di 100 milliwatt. Il mio cellulare ha una potenza di emissione di 2 watt. Ok, quindi già la prima cosa, se devo scegliere fra fare una comunicazione a 2 watt o a 100 milliwatt, senza entrare in complessi discorsi medici, farà meno male quella da 2 watt o quella da 100 milliwatt? Viene da dire farà meno male quella da 100 milliwatt, perché è 20 volte più bassa. Quindi già se devo scegliere se è meglio navigare con il wifi o è meglio navigare con il 4G, per dire, è evidente che è meglio navigare con il wifi, perché è più bassa la potenza e questo è un primo parametro. Ma vedono un altro che è molto interessante e l'abbiamo raccontato in molte scuole. Ora, Io sono un genitore, consiglio d'istituto da molti anni, sono stato presidente di consiglio d'istituto, ho fatto, mi è successo in varie occasioni la famosa domanda: volete un'antenna vicino alla scuola? Ma non sia mai, la vogliamo a 20 km. Così che cosa succede? Così succede che quando siamo nell'intervallo abbiamo 300 studenti che accendono il cellulare e che si devono connettere a una cosa che invece che essere a 10 metri, 100 metri, 200 metri è a 20 km, quindi invece di emettere, perché i cellulari cercano di emettere la minore potenza possibile, emettono la massima potenza che possono mai emettere. Se voi fate una fotografia elettromagnetica di Bologna e andate a vedere, scoprite che i rossi, che sono i punti di maggiori, sono nelle scuole negli ore di intervallo, che è proprio quello che non dovrebbe succedere. Quindi vi rendete conto che una scelta, fatemi dire, non informata, e poi è ovvio che nessuno la vuole lì perché è anche brutto da vedere, questo è un altro tema ancora, però una scelta non informata su che cosa fa meno male o più male, in realtà porta a scelte completamente diverse nel settore dell'information and communication technology. Adesso non vi annoio ulteriormente, ma era per dare un po' di spunti sui diritti, visto che certo, di diritti parlavamo. Bene, allora, siamo come al solito alle 18, e io direi che c'è spazio appunto per la solita mezz'ora di confronto tra i relatori e il pubblico. Prego. Uno, due. Ha parlato di assistenza familiare, cioè con la telemedicina in poche parole. Ecco, ma è possibile oggi, perché si parla tanto di questo discorso, ma oggi praticamente è possibile, con tutti quei limiti che lei ha detto di entrate, uscita, di condizioni e di ricevimento, oppure c'è da lavorarci sopra? Bene, facciamo un gruppo di domande a cui risponderanno i due relatori secondo dei temi trattati. Prego. Tre cose. Identità digitale. In teoria c'è già, c'è lo SPID, che dovrebbe essere la chiave di accesso unica al sistema. Ho fatto una ricerca l'altro giorno in Emilia-Romagna, non vorrei sbagliare, sono circa una sessantina gli enti che hanno abilitato lo SPID. I comuni credo che siano qualcosa come 300 o 400, a contare solo quelli. Quindi c'è qualche iniziativa per spingere un po' gli enti pubblici ad accelerare l'adesione allo SPID? Seconda cosa, interattività digitale. C'è qualche programma, assessore, per spingere gli enti, i comuni e le altre entità pubbliche ad accettare un dialogo attraverso la videoconferenza? Quindi perché io cittadino devo andare al comune a chiedere informazione quando potrei collegarmi a video? Lo SPID mi identifica, sanno chi sono, ti posso chiedere via videoconferenza. Terza cosa, la semplificazione, perché la regione, e grazie per averci dato tutti questi dati, sta facendo uno sforzo enorme per la digitalizzazione, ma il rischio è quello di portare nella digitalizzazione la complessità cartacea. E faccio un esempio concreto: è uscita una normativa sugli aiuti alle piccole imprese per il salto tecnologico, si parla di contributi fino a 10.000 euro, non vorrei sbagliare, ci sono da scaricare 100 pagine. Bene, prego. Allora, la mia domanda era, si riferiva proprio a questo, quando si cominciò a parlare di digitalizzazione si disse sarà un Stato senza carta, per il parlesso, perché sono parlando in inglese, eccetera. Mi sembra che invece siamo sommersi sempre da carte, da firmare, quindi questo credo che sia un problema grosso. Però ho già aggiunto una cosa, visto che mi ha ovviamente intrigato la situazione che ha fatto il signore sulla telemedicina, visto che nella professione che feci prima mi ero occupato, me ne ero anche per due modi di telemedicina nella mia professione, il problema non è tanto solo quello delle persone, purtroppo è fare accettare, mi piace molto, dal gremio mondo, del sanitario, il concetto di accettare la telemedicina, purtroppo c'è questa difficoltà nell'accettarla e questo è un problema che non è da poco conto. Bene, prego. Sì, no, le mie domande sono semplici, non sono di tipo bit. No, quando lei parlava della riforma che adesso è da 3 mesi che starete lavorando, che state lavorando, che finirete il 4 dicembre, no? Ecco, lei diceva che una riforma è buona se ha un elevato grado di condivisione totale. Allora, perché questa riforma sia accettata da tutti, così come lei l'ha definita? Volevo sapere se è stato fatto un questionario, cioè su quale base voi avete definite diciamo buona questa riforma. La seconda cosa invece è proprio di tipo veramente pratico. Io utilizzo praticamente solo ed esclusivamente gli autobus e sono super affollati. Allora, quando ci sarà quella biglietteria elettronica, no? Che diventerà un borsellino elettronico, come le diceva, no? Lo studente che viene da fuori, che prende il treno, poi prenderà gli autobus, eccetera. Io mi auguro che la TPR potenzi gli autobus, perché già ora non ci si può più stare, si viaggia in piedi, ammassati, dovrà essere collegata la cosa. Questo è un campo che abbiamo detto che poi richiameremo l'assessore Donini sul tema della mobilità. Sentiamo gli ultimi due, c'era il prego. Sì. Mi riferivo al concetto di diritti universali, servizi universali. Mi pongo una domanda, per quale motivo io fra forse 18 mesi devo cambiare televisione oppure prendere un decoder quando io, la mia televisione va benissimo, non ho né Sky né Mediaset, vedo i canali digitali terrestri, quelli che erogano la mia televisione, sono contento così. E mi chiedo se quello lì è un diritto universale, anche il mio, di non cambiare ogni 2 anni un sistema. C'era, si prego. Io non ho difficoltà a riconoscere il quadro positivo. Silenzio. Però c'è una cosa semplice, il pensionato di 80, perché non basta dire pane internet 26.000, i pensionati, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, cioè c'è in Italia, in Emilia Romagna su 4 milioni saranno 2 milioni, cioè a Spagna, c'è il pericolo, io va bene questo, però questo è un pericolo straordinario, cioè di creare nella società figure A che stanno nella digitalizzazione in un futuro e persone che già 60, 70, che hanno magari anche studiato, che questa è una cosa, in tutta questa esposizione mi è sembrata una sottovalutazione che mi mette il brivido, perché anche chi ha lavorato come me, pensionato, bene, poi esci dal lavoro, non utilizzi più quei mezzi tutti i giorni, di fatto diventa alla lunga, ti senti un po', come dire, un analfabetismo di ritorno. E quindi questa cosa, adesso io non è che ce l'ho con pane internet, come dire, mi sento di porla, basta uno che guardi, si guardi in famiglia, abbiamo i genitori, abbiamo conoscenze, è un problema troppo sottovalutato, e poi adesso non per venire, poi se uno pensa all'IMSS, i PIN, le cose, cioè c'è un mondo che se non ci si pone attenzione non è decisamente migliore. Mi sembra chiaro, il concetto è anche molto importante, prego. Allora, noi mi riferisco ai trasporti, abbiamo parlato soprattutto di diritti, a me viene in mente però anche un dovere, e il dovere secondo me è questo del cittadino. Quando un cittadino utilizza un tram, soprattutto in Facebook, tram, bus e a questi mezzi, deve anche pagare il servizio. Allora, come si fa a controllare che questo avvenga per tutti? C'è un sistema di verifica che voi potete fare? Perché mi pare che non ci sia una regola secondo la quale, se non è, voglio dire, una regola che uno si dà, vabbè, mi sembra chiaro il concetto. C'erano degli altri che avevano chiesto la parola? Armando? Era solo per dire, una cosa che ho visto che nelle relazioni è un po' presente sia in quella dell'amico Donini che del professore. Il tema è quello dei ragazzi che hanno troppo in mano il cellulare. Allora qual è il tema? Da tempo sto cercando di mettere in piedi un percorso in cui si vada alle scuole e recuperando le figure dei ragazzi morti in incidente stradale si possa riflettere su questa vicenda, nel senso che molto probabilmente solo per il tramite di un'esperienza traumatica, brutale voglio dire, può essere possibile chiedere una necessaria attenzione a questi ragazzi. E nel pensiero che io ho, ma Donini lo sa già da tempo, è quello di riuscire a coniugare questo percorso, queste esperienze che facciamo fare ai ragazzi con anche un po', diciamo, di ecologia, un po' di verde. Ogni ragazzo che perdiamo, ogni ragazza che perdiamo, piantare un albero in loro memoria e sulla base di questo percorso riflettere nelle scuole e in ogni scuola creare dei giardini della memoria che siano educativi rispetto all'uso appunto e dei mezzi, diciamo, di trasporto, ma anche del cellulare mentre sei alla guida del mezzo di trasporto. Era un po' questo, e mi pare un bel importante implemento del diritto. Mi sembra che Armando tutte le sere, tutte le volte ci dia, l'altra volta sui zingari, no? Che sì, no, Manconi ha molto apprezzato l'intervento e anche oggi non ha detto cose. Chi non aveva chiesto la parola, che io non l'ho visto, c'è qualcuno? Perché poi farei fare due giri di conclusione ai nostri due relatori che ci hanno stati molto bravi. L'ultima domanda. Però bisogna evitare i comuni, che le comunicazioni vengano fatte. Perché io mi trovo nella condizione che a Bologna ho chiesto la parte da comune me l'ha dato. Quando mi trovo dove ho la seconda casa, o vado io in comune a chiedere se c'è la possibilità di accedere ai servizi telematici, o se no questi non lo solo te lo dico, ma non te lo danno neanche. Questo è un dare e un avere, perché se è giusto che io abbia il servizio, è anche giusto avere la possibilità di accedere, senza che io mi debba impegnare, basta un pezzo di carta, una lettera infilata dentro al buchetto della posta, dove dice dal tal giorno il tal comune ha la possibilità di accedere tramite il servizio. Dov'è la seconda casa? Io volevo fare la domanda. La seconda casa è a Monterezio. No. Adesso ci penso io con Spadoni. E tu speravi che fosse in Toscana. Prego, ce ne sta un'altra, prego. Prima si parla di struttura e cultura, no? Si parte dalla struttura e poi bisogna intervenire anche sulla cultura, che è molto radicata, la paura della tecnologia, eccetera. Forse io prego da questo mio punto di vista che la struttura è molto importante, perché se già partiamo con una struttura debole allo spagno e abbiamo paura della tecnologia, chiaramente siamo più fortemente demotivati. Quando questa è la pervasività tecnologica. E quindi quando il cittadino, ma anche il lavoratore, il dipendente, si trova a dover attivare 10.000 PIN per poter accedere a diversi servizi, dov'è quel paese che ha, cos'è Stoccolma, che ha individuato, non so, c'è una riforma da qualche parte del mondo, che ha attivato, dove in Finlandia, ecco il mio vicino mi ha suggerito, Finlandia, i cittadini hanno un unico PIN e con questo PIN viene utilizzato per accedere a tutti i servizi. Sì, chiaramente è più facile anche approcciarti a un nuovo modo di fare. Va bene, io sto terminando. Posso dire una cosa? Sì. Io? Volevi dire qualcosa? Sì, volevo dire una cosa, che uno strumento digitale lo abbiamo, il fascicolo sanitario elettronico, però ce l'hanno pochissimi. Cioè, ci danno uno strumento digitale e poi, non so, per ragione nostra, per ragioni tecniche, per ragioni di mancata pubblicità, per tante ragioni, è rimasto uno strumento che da quanti anni c'è questo fascicolo sanitario elettronico? 10. da 10 anni. Da 10 anni c'era il 10% della popolazione, cioè un 1% all'anno, diciamo. È molto poco in una regione come la nostra. Cioè, io ho parlato con molte persone di questo fatto e ho sentito che molti si lamentano del fatto che per dare il via al fascicolo sanitario elettronico bisogna andare al CUP. Allora, il CUP spaventa tutti adesso, perché ci sono le file, la gente lavora e quindi non puoi farlo per telefono, non puoi farlo digitando a casa tua, perché in ogni caso devi andare al CUP. Io sono andata al CUP l'altro giorno e ho chiesto conferma a una signora del CUP, mi ha detto: anche se lo attivate da casa dovete sempre venire al CUP, e questo è un limite molto grande. La regione, avevo sentito dire che aveva intenzione di fare una campagna di pubblicizzazione di questo strumento, perché è uno strumento importantissimo, validissimo, di cui io vado fiera con quelli delle altre regioni. Poi dopo dico: ce l'hai tu? Se c'è qualcuno delle migliori, no, io non ce l'ho, perché devo andare al CUP, perché non l'ho capito bene, perché è una cosa troppo complicata. E le signore e anche al CUP stesso, e quelli dice: vorrei attivare il fascicolo. È una cosa, non lo so, non è una cosa che ha un che di lancio, capito? Sembra quasi, non dico, non si scocciano assolutamente perché sono carinissime, però non ce l'hanno come imprinting qualcosa relativo al fascicolo. Secondo me questo qui è un primo passo pratico da fare. Certo, mi sembra. Sì, l'ultimo, no, veloce. Veloce, perché l'ho fatto io oggi, no? In base a quello che ha detto la signora, ci sono delle negatività ma anche delle positività. Io l'ho fatto 2 anni fa, il fascicolo sanitario elettronico. Sono giovane, già da certa età, ho dimenticato il password, ok? Volevo attivarlo. Oggi l'ho attivato, è stata una cosa semplicissima. Ho telefonato al CUP, ho detto: come devo fare io questa cosa? Bene, mi ha dato un numero verde, ho telefonato un numero verde, loro avevano anche la password vecchia, che io la password avevano la mia email vecchia, per cambiare mi hanno chiesto la carta d'identità, il numero della carta d'identità, e mi hanno chiesto il codice fiscale. Io in un attimo ho riattivato perché la scheda, l'attivato il fascicolo sanitario elettronico. Perché non era, diciamo, la prima volta. No, è vero, perché ho detto anche lei, qualche tanto è vero, che ci sono delle positività, e bene sapere queste cose. Bene, ma dobbiamo, abbiamo detto, una battuta. Volevo solo dire che 6 anni fa io l'ho attivato con un'email, il fascicolo elettronico, quindi non sono andato. L'altro, un'altra battuta. A me me l'ha attivato Morozzi in persona alla festa dell'unità nel 2014. Non è assolutamente difficile. Non si attiva con una mail. Il fascicolo, abbiamo già detto, sentiamo. Ma c'è un problema ancora, che molti medici non sono mica pronti per mandare la ricetta, per le cose di questo genere, quindi bisogna fare una campagna pubblicitaria molto vasta, approfittando del fatto che se verrà finalmente approvato il lavoro e la forma del fine vita, è vero, sarà indispensabile avere dei dati di questo livello che siano anche ricavati. Bene. Tra l'altro voi avete sentito che, poi ce lo dirà lui adesso, diceva Mazzini che oggi c'è stata una conferenza stampa, quindi parte, sembra, la campagna. Il fascicolo, io ho detto 10, in realtà è dal 2010 che comincia a essere diffuso, l'abbiamo dato a Prodi il 20 gennaio 2009, io ho la foto del primo fascicolo che abbiamo dato a Romano Prodi, che è arrivato un po' tardi, ma l'altra sera è passato a salutarci quando c'era Manconi, qualcuno c'era ancora e l'ha visto. Gli ho ricordato per l'occasione il primo fascicolo, ma credo che abbia perso la password, quindi dobbiamo ridarglielo. Però quello che è stato detto adesso mi sembra che abbiamo delle novità. Allora, velocemente posso, chi inizia? Donini, Mazzini, sì. Prego. Di solito facciamo così, anche perché il Presidente mi ha richiamato in aula. Allora, in realtà quando parliamo di sviluppo digitale qui accanto a me come regione avrebbero dovuto esserci, o idealmente ci sono, anche altri colleghi che poi lavorano sui contenuti sui quali si innesca l'infrastruttura e lo sviluppo tecnologico digitale. Io, perché sono un curioso, perché lavoro spesso in squadra con altri, un po', diciamo così, accedo anche ad altre informazioni, però ovviamente non voglio rispondere per loro. Sulla telemedicina ho visto questo. Noi abbiamo fatto una cosa che non ho detto prima, a Modena, il primo festival digitale nazionale, col patrocinio del governo, e è stata un'idea della Regione Emilia Romagna, cioè di promuovere, esporre ogni anno. Fra 2 anni ci sarà a Bologna, quindi quest'altro anno nel 18 è a Reggio, nel 19 è a Bologna. Ogni anno esporremo in questo festival digitale tutte le possibili tecnologie d'avanguardia nei vari ambiti, nei vari campi di attività, e devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa, perché si sono visti i primi droni che trasportano persone, si è visto la guida dei macchinari agricoli da remoto, si è visto anche aziende che chirurghi a New York che operavano in Canada in laparoscopia da remoto. Quindi secondo me, da quello che si è visto come scenario futuristico, la telemedicina, che non poteva svilupparsi in un sistema prevalentemente analogico, in un sistema digitale è la naturale prospettiva. E devo dire che la comunità scientifica nel suo complesso, almeno quella che abbiamo visto noi, con la quale ci siamo confrontati, è molto eccitata dall'idea di promuovere non solo la valutazione delle analisi, perché è anche telemedicina il fatto che, come diceva lui, io mi provo la pressione o mi provo i parametri fisici e poi lo trasmetto e ho il referto, no? Una volta mi sono fatto un elettrocardiogramma in una farmacia ed è arrivato il referto perché è stato visto da un... Però non è solo questo, ma ci sono anche scenari di chirurgia, da remoto. Quindi da questo punto di vista penso che nel giro di 4-5 anni, e probabilmente già fra 2 anni a Bologna potremo fare una sessione proprio su questo, della telemedicina, avremo delle prospettive, delle sorprese molto, molto interessanti. Così pure sulla videoconferenza. Ormai certi livelli del confronto istituzionale avvengono in videoconferenza. Cioè io non vado neanche più a Roma alla conferenza delle regioni, ho la saletta in regione dove sono collegato con tutte le altre regioni, litighiamo lo stesso, ci confrontiamo, il moderatore ovviamente decide chi ha la parola, ma alla fine ci sono le regole della democrazia uguale, la videoconferenza, a mio giudizio, può essere utilizzata in 2 ambiti molto, molto, molto particolari. Il primo è quello del rapporto con la pubblica amministrazione, nel quale rapporto occorre anche una riconoscibilità, perché ovviamente è lo sportello del futuro. Certo, noi ormai abbiamo tutti i comuni cablati, quindi questo è assolutamente già oggi possibile e sicuramente lo sarà nei prossimi anni. La seconda, per esempio, è un progetto che io seguì anni e anni fa per altri lavori, altri interessi di natura più privatistica, è per esempio il telecontrollo. Oggi noi, la domotica del futuro è sempre più video. Il classico genitore che dice: io metto le telecamere, ma non perché ho paura dei ladri che vengono in casa, ma ho paura dei figli che cosa fanno, no? però la domotica è quella, cioè tu hai in un palmare hai sostanzialmente tutta la tua casa controllata, la puoi accedere, accendere gli elettrodomestici, puoi valutare i parametri e tutto quello che è, e controllare anche la sicurezza. Sul tema della semplificazione, noi ci siamo, io dico questo, poi Mazzini sarà più preciso sullo speed e su altre. Noi abbiamo un po' battagliato col governo, secondo me ce l'abbiamo fatta, se non hai notizie contrarie, dovremmo avere ottenuto che anche il progetto nazionale dell'identità digitale si coniugasse col progetto regionale, perché la nostra preoccupazione era quella che l'Emilia Romagna, proprio perché era un po' più avanti delle altre, aveva già un suo elemento, diciamo un suo progetto sull'identità digitale, e non volevamo fosse disatteso da quello nazionale, perché la cosa peggiore che potessimo fare è creare vari progettualità in conflitto fra loro. Sul pane internet io sono d'accordissimo su questa tesi, però bisogna stare un po' attenti, perché noi abbiamo stimato in 1 milione di persone in Emilia Romagna quelle che sono a rischio di esclusione dallo sviluppo digitale. Una parte di queste persone sono più competenti di me e alle quali manca solo la tecnologia, manca solo il collegamento, ma sono già, come dire, assolutamente preparati e formati sul piano digitale. Io credo che sia più della metà. Poi c'è una parte invece che potrebbe riguardare qualche centinaia di migliaia di persone, non è detto che siano tutte spie, perché ci sono varie situazioni, però queste invece le dobbiamo raggiungere. Di queste persone noi ne abbiamo già raggiunte un 10%. E ovviamente è un lavoro, noi siamo dall'altro orgogliosi del fatto che siamo l'unica regione che ha un progetto del genere in Italia. Pane internet ce lo vengono a chiedere tutte le altre regioni e noi siamo quelli che abbiamo cominciato a fare qualcosa. Dall'altro siamo consapevoli che c'è ancora tantissimo da fare. Per quello nei prossimi anni metteremo in campo una strategia più complessiva, soprattutto riguardante gli anziani, ovviamente con il coinvolgimento delle associazioni degli anziani stessi, perché anche lì bisogna andare coi piedi di piombo, nel senso che c'è anche un garbo, tra virgolette, non è che si possono deportare gli anziani in sale multimediali per fare loro acquisire competenze. C'è anche un gap, perché uno giustamente ha anche il diritto di non evolversi, c'è anche un garbo istituzionale, però noi metteremo in campo sinergie con tutte le associazioni principali di anziani, dallo SPI, dall'Auser, da tutti i centri anziani, per dotarli dal punto di vista infrastrutturale e per dotare anche di progettualità di accompagnamento all'evoluzione di internet. Sulle riforme accettate da tutti è il metodo classico, cioè noi ci siamo presentati con una proposta aperta, discussa nei territori, e abbiamo recepito le osservazioni che ci pervenivano da tutti i soggetti, sapendo che quando si fa una riforma, la riforma non può piacere a tutti, ma alla fine se un ente, una persona si sente, diciamo, coinvolta nel percorso, nel processo, è più facile che ti dica alla fine, vabbè, non è quella che avrei scritto io, però l'accetto perché comunque è un punto di caduta onorevole. Quindi questo abbiamo fatto con tutte le riforme in campo, sapendo che a volte noi istituzioni siamo anche baricentrici o comunque depositari di istanze diametralmente opposte l'una con l'altra. La misuriamo sull'urbanistica, sui trasporti, anche sullo sviluppo digitale fra associazioni di consumatori e via dicendo. Quindi dobbiamo come istituzioni cercare di tenere in considerazione tutti e cercare di far sì che tutti si riconoscono almeno nel percorso, almeno nel processo partecipato e poi ovviamente anche negli esiti della discussione. Sulla evasione nei bus abbiamo progetti che parleremo più nel dettaglio, siamo anche qui è antipatico sempre dirlo, siamo la regione col minor tasso di evasione, grazie al fatto che da noi i cittadini sono onesti e pagano per lo più i biglietti dell'autobus, quindi sono meno furbi, meno furbastri diciamo di altre regioni, e comunque che ci sono stati più controlli. Ma il tasso di evasione che ha la nostra realtà, soprattutto quella bolognese, è un tasso di evasione molto ridotta, sia perché c'è, adesso entrerà in campo la validazione del biglietto, e sia perché comunque c'è un controllo sociale che in altre regioni non c'è. E il controllo sociale è molto influente. Dopodiché anche lì c'è da fare tanta altra strada, però diciamo che partiamo da un'evasione sotto il 10%, che è un'evasione in Italia diciamo molto molto molto bassa. Sui ragazzi che muoiono, ecco, l'altro lato, che io avevo aperto una parentesi, sarebbe bello farci un seminario su questo, cioè noi porteremo tecnologia, porteremo competenze, porteremo evoluzione digitale, ma la qualità delle relazioni umane, la qualità della vita delle persone migliora o peggiora con lo sviluppo digitale? Ecco, allora, a mio giudizio, una riflessione, senza dover ispirarci a movimenti di retroguardia, comunque una riflessione occorre fare. Sicuramente un dato drammatico ce l'abbiamo davanti agli occhi, e cioè il fatto che la gente muore, non solo i giovani, anche i cinquantenni, anche i sessantenni, la gente muore perché in macchina fa altre cose rispetto alla conduzione del veicolo. Allora noi avvieremo proprio sotto Natale una campagna fortissima di sensibilizzazione che andrà soprattutto nelle scuole. Perché? Perché educando i bambini si educano le persone. Io ricordo sempre mio figlio, quando io mi lavo i denti al mattino e lui è lì a 10 anni, se per caso lascio l'acqua aperta più di 2 secondi mi apre un'avvertenza sindacale, perché a scuola giustamente gli hanno insegnato che l'acqua si spreca se si lascia il rubinetto aperto. Allora, e se io provo a telefonare in macchina e ce l'ho con me, mi apre altro che avvertenza sindacale. Quindi è chiaro che noi entreremo nelle scuole elementari, soprattutto primarie, e cercheremo di educare i bambini a far comprendere i loro genitori che se sono in macchina e chattano sul tablet o sul telefonino hanno il 60% di possibilità di incidentare se stessi e gli altri e magari anche morire. Poi tutto ciò che si può fare in più per diciamo sensibilizzare i cittadini, noi ovviamente nel limite delle risorse che abbiamo siamo disponibili. Io vi devo lasciare e vi lascio in ostaggio Mazzini per la chiusura. Grazie. Vediamo presto e sarà nostro ospite. Prima di dare la parola a Mazzini, volevo dire che effettivamente molte di queste iniziative anche sono state fatte. Adesso è intervenuta Antonella che lavora al Galvani. Io ricordo che per 3 anni abbiamo fatto corsi sull'uso del fascicolo con i ragazzi del Galvani per insegnare ai nonni poi l'utilizzo del fascicolo. Come vedete, ci sono dei momenti in cui anche queste occasioni sono di grande socializzazione. Gianluca, per intervento conclusivo. Anche per rispondere, perché c'erano un po' di domande che sono rimaste pendenti, intanto sull'identità digitale. Allora, l'identità digitale deve necessariamente essere un oggetto unico con un PIN, una password, quello che è unica, e a cui bisogna accedere solo di servizi. In Emilia Romagna abbiamo sviluppato un sistema che si chiama Federa, che ha una distribuzione dell'ordine di 1.400.000-1.500.000 di cittadini e che passerà allo SPID. Quindi stiamo, quando si parla di SPID si parla di due cose, si parla del service provider, cioè chi grazie a quella identità può essere autenticato, e qui devo dire che la situazione non è come ricordava, ma abbiamo circa 750 servizi attivi in, mediamente ogni comune ha almeno un servizio esposto, poi dipende quale servizio, va dalla mensa scolastica a chissà che cosa. Stiamo cercando di portare le identità che abbiamo acquisito nel tempo sullo SPID nazionale, e questa è la vera difficoltà. E comunque un progetto in questo senso c'è, e ci stiamo proprio muovendo per fare questa cosa. Devo anche dire che quando prima si parlava dell'introduzione del fascicolo sole e del fascicolo sanitario e di tutto quello che ne deriva, è cambiato nel tempo. Le normative sulla privacy sono cambiate, quindi se una cosa qualche anno fa si poteva fare per email, oggi bisogna farla con un riconoscimento del viso, ma non basta. Se il dato è particolarmente sensibile, bisogna farlo con riconoscimento del viso e anche un riconoscimento mediante un cellulare tutte le volte che tu fai un login o una password. Quindi l'operazione è un'operazione che nel tempo è cambiata, perché sono cambiate le norme. E sono cambiate anche giustamente, perché la privacy è diventato un qualcosa rispetto ad anni fa molto più sentito, e quindi magari non siamo poi così contenti che tutti vedono i nostri referti e le nostre cose. Questo è il motivo per cui è sicuramente vero che qualche anno fa era fatto in un modo, è sicuramente vero quello che dice la signora che oggi è fatto in un altro, ed è ancora più vero che l'anno prossimo sarà ancora più restrittiva la situazione, proprio perché stanno cambiando le norme e l'implementazione di queste norme sta avvenendo proprio in questi giorni. Sul fascicolo sanitario è importante anche ricordare che sono state fatte delle azioni di verticalizzazione su Pane Internet, quindi è vero che Pane Internet insegna in generale come funziona Internet, ma è anche vero che per esempio può aver insegnato ad alcuni come funziona il fascicolo sanitario, come esempio specifico. La televisione, la domanda sulla televisione è drammatica che lei ha posto, perché la domanda è: per quale motivo ogni 2 anni devo cambiare televisione, no? Allora guardi, deve cambiare televisione per un motivo banale, che è questo: le frequenze che vengono usate in Italia per guardare la televisione sono degli oggetti molto preziosi, e i soggetti che guardano la televisione stanno calando enormemente. Quindi, visto che quello è un bene di tutti, si sta decidendo che quel bene non è più a disposizione della televisione, ma è a disposizione di questi oggetti qua, che hanno un business e un numero di fruitori assolutamente maggiore di quello della televisione. Quindi la TV via etere sta morendo, la TV sta diventando una TV on demand, sta cambiando completamente la sua impostazione, e quindi ogni 2-3 anni tolgono via dei canali radio su cui trasmettono. Di conseguenza, visto che quelli che tuttora continuano a fare trasmissione e vogliono continuare a erogare i loro contenuti, giusto o sbagliato che sia, questo è quello che sta avvenendo, si devono restringere su frequenze sempre più piccole. E allora bisogna cambiare la tecnologia, e ogni 2-3 anni c'è un cambio tecnologico per fare questo. Non so quanto possa essere giusto o ingiusto, io le dico: guardi, io sono purtroppo, noti la parola, stato il responsabile del primo switch off al digitale terrestre per tutta l'Emilia Romagna. Quindi mi sono fatto tutta l'Emilia Romagna, ho preso dei pomodori in faccia da parte di 347 comuni, che erano il numero di comuni presenti in quel momento, con gente che prima vedeva benissimo la TV e dopo ha smesso di vederla e tutto quello che ne è derivato. Però non è stata una scelta, è stato il fatto che sono stati tolti una 30 di canali, e quei canali sono stati decisi per altri servizi. Quindi quello che sta succedendo è che si tolgono frequenze alla televisione, perché si dice che la televisione non è più un servizio. E quindi davanti alla domanda: la televisione è un servizio universale, meno della telefonia, meno della capacità di comunicare, perché la televisione è monodirezionale, il cellulare e quant'altro è bidirezionale, e quindi nell'assetto dei diritti è più in alto. Quindi questo, se vuole, è una risposta possibile a quello che sta succedendo. Noi paghiamo l'abbonamento. No, attenzione, lei non paga l'abbonamento alla TV. Lei paga una tassa di concessione, perché lei ha un apparato di ricezione televisiva. È peggio. Io pago per poi dopo dover cambiare la televisione. Sono perfettamente d'accordo con lei, e visto che non pagavano tutti, abbiamo deciso che lo mettiamo nella bolletta dell'energia elettrica, così siamo sicuri che lo pagano tutti, ed è aumentato di quasi il 30-40%. Allora, questo per quanto riguardava la televisione. Per quanto riguardava la semplificazione, qualcuno ha detto: ma è un tema infinito su cui si possono fare un convegno, una decina. Allora, da un lato c'è un errore di fondo che viene fatto molte volte, che è questo: non si possono portare i procedimenti cartacei in digitale. Questa è la cavolata maggiore che può avvenire. Ne prendo uno come esempio. La firma digitale, no? Firma digitale, firma un documento. Quando ci sono le condizioni multiple da firmare, in un sistema digitale è difficilissimo fare la firma. E oggi non c'è neanche una regola chiara su come farlo. Quindi se io devo accettare, devo fare 5 firme, in questo momento che cosa faccio? Firmo 5 volte digitalmente lo stesso documento. Che però non è la stessa cosa, perché non... quando io firmavo a mano, stavo firmando una clausola bella specifica. Se firmo 5 volte il documento, non è chiara la mia volontà rispetto a quale particolare riga sto firmando. Quindi quello è un esempio venuto male di un processo che è stato mediato da un processo cartaceo ed è diventato un processo digitale. I processi invece devono nascere digitali nativamente, e allora a quel punto sono processi completamente diversi e diventano molto facili. Io ho diversi dirigenti in Regione Emilia Romagna che mi dicono: quando firmavo a mano ci mettevo 3 minuti, da quando firmo in digitale ci metto mezz'ora. Ti sembra possibile? Perché ancora una volta è sbagliato il procedimento che stiamo facendo. Io firmo da ovunque in digitale, su questo maledetto oggetto che accompagna purtroppo la mia vita, e devo dire che firmo a una velocità molto maggiore rispetto a quella che avevo in altri momenti. Ecco, questo un po' per rispondere al tema, ma anche per dire che, per esempio, stiamo facendo un sistema di accesso unico per le imprese, nel quale quando devono fare una pratica ci sia immediatamente 4 cose, lo sportello delle attività produttive, lo sportello dell'edilizia, lo sportello dell'ambiente e lo sportello della sismica. Questi 4 elementi che normalmente sono tutti da fare per riuscire a fare, non so, una casa, un mobile, determinate azioni. Oggi e nel tempo hanno visto un'aberrazione, cioè che uno si deve recare in 4 uffici diversi a dire le stesse cose. Notato, c'è un obbligo della pubblica amministrazione di non chiedere mai le cose che la pubblica amministrazione essa stessa ha, quindi io non ti posso chiedere di ridarmi una cosa che ti ha dato l'ufficio alla mia sinistra, perché io ce l'ho già per definizione quella cosa. Stiamo, visto che questo è un po' disattesa come situazione, stiamo costruendo un meccanismo di accesso unico unitario. Spero di aver dato prima nei diritti qualche spunto un po' diverso, anche solo da tirare della fibra, perché potrebbe essere banale. Grazie.